molto bella e occhi una stella, carina piccolina con lo sguardo alla bambina. Io non lo so, no no no, per un donna solo no impazzerò. Hey hey signorina, conosco una parchina dove non si fa attenzione perché cerca l'emozione. Ti voglio baciare e rubare, e poi potevo fare l'emozione dell'amore. You know I'm searching for sweet emotion. Italian fellow, what love would take my heart. Today I saw you down by the ocean. I need to have you, soft kisses in the dark. When I'm at home, I still remember those tender nights I spent with you. All day long, I will surrender. Oh, a white dream, make it true. Stay with me tonight, until tomorrow, just another night. Dell'amore tu come stai tu.